Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Solo nel mese di marzo abbiamo elevato circa 600 fotogrammi di infrazioni che vanno dai 120 km orari ai 180-190 km orari, che verranno poi successivamente contestati presso le abitazioni. Durante i servizi di controllo della velocità, abbiamo, anche quando l'apparecchiatura lavora da sola, non con l'operatore, quindi in autovettura, abbiamo potuto constatare che ci sono autisti che si fanno la barba al volante, addirittura leggono il giornale, molti automobilisti che usano il tablet e non solo il telefono cellulare, quindi tutti gli incidenti che rileviamo quasi tutti i giorni sulla pontina sono dovuti a distrazione, solo e pura distrazione. Per fortuna tramite la nostra azione di contrasto e voi cosa fate quando siete al volante? Cominciate a tremare perché è arrivata Trucam, una cosa terribile. Quello a parlare era nel servizio di Corrado Zunino per Repubblica.it, Massimo Corradini, il comandante della Polizia Stradale di Aprilia, che sta raccontando come funzionano questi marchingegni che si sono comprati. Quelli della Polizia Stradale ne stanno comprando sempre di più e fanno veramente paura a vederli. Vi immagino una sorta di sembra una cinepresa, quelle degli anni 40-50, avevano tre obiettivi, infatti ha tre obiettivi per vedervi meglio, ha un mirino, viene puntata contro l'automobile e rileva immediatamente tutto, rimedia la velocità, rimedia se avete le cinture di sicurezza, se avete il cellulare in mano, se avete fatto delle puzze, insomma tutto, perché? Perché è super tecnologica e questo da un certo punto di vista permetterà agli operatori della sicurezza stradale di intervenire in un maggior numero di infrazioni. Vedremo tra poco quanto incide degli incidenti stradali l'uso del cellulare. Noi siamo tra gli automobilisti più sprocedati a questo punto di vista. In strada muoiono pedoni perché hanno il cellulare all'orecchio, quindi sono distratti e vengono travolti dalle automobili perché attraverso in maniera imprudente, comunque senza vedere le macchine stanno arrivando, e usano il cellulare gli automobilisti. Non tanto per telefonare, perché ormai molti hanno il viva voce installato nei modelli più recenti di autoveicolo, ma anche per smaneggiare sui social, rispondere a WhatsApp, vedere chi ci scrive su Facebook e via dicendo. Beh, oggi parleremo di Trucam. Non ne avete ancora sentito parlare? Ve ne accorgerete presto quando vi arriverà a casa una foto iper definita di voi che state in automobile soli, accompagnati, in compagnia, che fate cose che non vorreste mai che qualcuno a casa vostra vedesse. 800 24 00 24, temete Trucam? Per cosa la temete? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Trucam è il nuovo apparecchio telelaser in dotazione alla Polizia Stradale in Italia, in particolare da un mese e mezzo in dotazione al distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia. È la nuova apparecchiatura telelaser che rispetto al vecchio apparecchio Digicam è composta da un'unica strumentazione. Nel vecchio avevamo uno schermo a parte, una batteria a parte, in questo abbiamo tutto nello stesso strumento. È un apparecchio che rileva la velocità sia in positivo che in negativo, nel senso in allontanamento la velocità ci verrà in meno con il meno davanti, quindi in negativo, in avvicinamento verso la strumentazione verrà in positivo. Oltre a questo, il Trucam, la novità è che riesce attraverso un filmato e delle foto in HD a immortalare altre violazioni al codice della strada, l'uso della cintura, il mancato uso della cintura e l'utilizzo del cellulare alla guida. In questi casi viene fatto il servizio con le macchine in avvicinamento. Sempre il comandante della Polizia Stradale di Aprilia, Massimo Corradini, nel servizio di Repubblica, che spiega esattamente nei minimi particolari quello che è l'indefesso ruolo di Trucam. Trucam riesce a immortalare tutto, una foto in HD in massima definizione, cioè si vedrà anche se vi siete fatti la barba la mattina o no, si vedrà anche se avete i capelli a posto, il trucco a posto. Francesca, preoccupata? Io abbastanza, io tutte le mattine, salve, buonasera prima di tutto, quando vado al lavoro mi trucco in macchina, a volte mi è capitato anche di farmi la ceretta. La ceretta come? Si toglie i peli col mentre guida? Sì, i baffetti e le sopracciglia. Senza, lavoro a Roma, quindi tra un semaforo e l'altro mentre vado al lavoro. Ma si limita al viso o anche ad altre zone, no? Per capire. A questo punto lo dica. No, una volta solo mi è capitato. Si è tolto anche dalle gambe? Si è tolto. Dalle gambe, sì. Cioè, tanto lì non si vede, scusa, si mette la striscia sotto. Si vede, sì. La strappa via mentre guida e via. Mentre guida. e scende, sì, che è un'altra persona. Sì, sì. Cioè sale pelosa e arriva tutta depilata. Sì, sì. Vabbè, sì, ma delle situazioni in cui si imponeva questa velocissima depilazione, immagino. No, è perché la mattina faccio sempre tardi. È il momento giusto, certo. Mancano, se sbagli, 5 minuti a Roma, ti ritrovi tutta bloccata. E quindi, ma già che c'è, può anche mettersi lo smalto, scusi. Perché no? Una volta l'ho fatta. L'ha fatto. Ecco, tutte queste cose. Tra lo un sa... semaforo e l'altro, però, non sì, però Francesca, io ci rido, mi fa ridere lei che si depila, si fa la ceretta mentre guida, è divertente, ma se lo dice lei... Penso che non sarà la sola signora in Italia che faccia questo. No, parecchie amiche mie l'hanno fatto. Allora è normale, adesso me lo diranno chiamando all'800 24 0024, fino a che punto arriva la cura per la propria messa a punto intima quando si guida, fino a che punto potete arrivare, voglio saperlo a questo punto. Abbiamo già oltrepassato la barriera dello smalto alle unghie, della ceretta, della depilazione, del trucco, del parrucco, adesso vedremo cos'altro si può fare in macchina, ma tutte queste azioni, devo dirlo Francesca, se no la buttiamo solo a ridere, sono azioni che potrebbero determinare la morte sua o di altre persone. Muoiono in Italia centinaia di persone per delle distrazioni, per cose stupide. Quindi d'ora in poi il fatto che Trucam potrà farle una foto e mandarla a casa e vedere lei mentre si strappa la ceretta inguinale per andare proprio oltre quello che uno può immaginare, è divertente come cosa, può essere anche un pensiero che faccia venire idee, però allo stesso tempo rischia la vita sua e delle persone potrebbe incappare. Adriano, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per la chiamata. Per cosa teme Trucam lei? Non ho capito, scusi. Per cosa teme Trucam? Io non lo temo, io dico che facendo 50-60 mila chilometri all'anno per lavoro, noto tantissimo che le donne fanno di tutto quando guidano i fuoristrada. Faccia degli esempi, adesso non vorrei buttare la croce solo sulle donne, ma cosa fanno? Va detto. Lo specchietto retrovisore interno centrale, che oltretutto sono istruttore di scuola guida, serve per mettersi il rossetto. E va bene, okay? Poi che altro? Ecco. Poi quando non hanno il telefono sulla mano sinistra, hanno la sigaretta sulla mano destra. Sì, e guidano cosa? Con il mento, perché se con la destra fumano, con la sinistra telefonano. No, ma infatti anche fumare in macchina, la cenere o la cicca cade. Certo. Sono cose veramente indescrivibili, no? Che fanno. Cioè, giustamente, come dicevate voi, smartphone, tablet, questo e quell'altro, ma anche fumare, guardarsi allo specchio, mettersi a posto i cappelli, queste cose qua che fanno lei le donne. Lei è istruttore di guida? Sì, sì. Senta, ma mangiare un panino non si può lo stesso? Uno che mangia un panino è proibito anche come il cellulare. Sì, ma nessuno le ferma, esattamente come dice l'articolo 182 del codice della strada, se dovessero, e mi piacerebbe che lo facessero, che i vigili, le forze dell'ordine controllassero le biciclette, perché non c'è, ci sono pochissime biciclette che sono a norma e che non dovrebbero circolare quando ci sono le piste ciclabili. Sì, vabbè, questo adesso allarghiamo, noi già ci fermiamo semplicemente ai comportamenti scorretti durante la guida, che verranno tutti a galla, sarà lacerato il velo dell'indifferenza e della pudicizia, perché Trucam li riprenderà e ne farà delle foto, ci saranno delle fotogallerie che potranno girare comunque nei social, l'immagine prima o poi, dei comportamenti scorretti alla guida. Giovanni Viganò, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Viganò è tecnico commerciale della Eltraf, è la ditta che distribuisce Trucam in Italia. Allora, ci spiega esattamente in cosa consiste e fino a che punto di dettaglio può arrivare a fornire alle forze dell'ordine Trucam? Sì, allora la Trucam innanzitutto nasce e viene omologata in Italia come misuratore di velocità, quindi la sua funzione principale è senz'altro quella di rilevare le infrazioni sull'eccesso di velocità. È dotata di una telecamera che permette di documentare l'infrazione, quindi una telecamera che fa un filmato prima di una foto ad alta risoluzione, un filmato a 480 linee di definizione, e conclude questo filmato con una foto in alta definizione, che sarebbe in realtà un Full HD, cioè 1920x1440. Beh, è un bel formato, avercela. Sì, è sufficiente per vedere alcuni particolari all'interno dell'abitacolo. E tiene in memoria tutto il filmato e la foto in alta definizione, tutto il materiale. Esattamente, è dotato di una scheda, una normalissima scheda di memoria da 16 giga, può contenere circa 25.000 infrazioni. Contestualmente quindi si può notare magari qualche comportamento scorretto come la cintura slacciata, l'uso del telefono o altre cose di questo genere. Ma come nasce questa Trucam? Cioè, qual è l'origine? Era in dotazione alle nostre forze di polizia o prima ancora? Allora, viene la Trucam in realtà è sul mercato italiano dal 2011, cioè è stata omologata nel 2011 e la Eltraf ne ha vendute circa 350-370 unità alle varie forze di polizia municipale. Recentemente la polizia stradale, cioè il Ministero degli Interni, ha acquistato una partita di apparecchiature che stanno utilizzando quest'ultimo periodo. Quindi le cominceremo a vedere un po' tutti per strada. Prima magari era un comune che aveva deciso di comprare un po' di Trucam per i loro vigili, lo conoscevano soltanto gli abitanti di quel comune. Oggi è possibile vedere una pattuglia della stradale con la Trucam che giustamente nel pieno diritto fa i suoi rilevamenti. Sì, loro possono rilevare potenzialmente su qualsiasi strada nazionale, vabbè, chiaramente le polizie municipali solo all'interno del proprio territorio, però chiaramente essendo 380 apparecchiature. Ma non ha le limitazioni dell'autovelox, cioè nel senso possono farlo anche nascosti dietro un dosso, dietro un cartello, non deve essere La Trucam deve, per funzionare, deve essere in linea diretta di visione col veicolo che deve rilevare. In ogni caso l'utilizzo di queste apparecchiature è regolamentato, quindi va presegnalato come qualsiasi altro. Ah, ecco, va presegnalato, attenzione, strada sotto controllo. A che distanza riesce a riprendere l'autoveicolo? Allora, c'è una distanza a cui riesce a rilevare la velocità, che è determinata dalla possibilità del laser, che è di 1200 metri. Quindi è più di un chilometro, un bel po'. Sì, nel momento in cui avviene l'infrazione, l'apparecchio inizia a filmare e accompagna, diciamo così, il veicolo fino a 50 metri, dove viene fermato e dove viene scattata poi la foto in alta risoluzione. Quindi diciamo è un apparecchio, diciamo, molto efficiente da questo punto di vista. Sì, è un apparecchio molto versatile, molto, molto efficiente. E in effetti, c'è da dire, al di là delle facezze, degli scherzi, anche la signora che si trucca, o il signore che si pettina, o il signore che telefona, in realtà sono potenziali criminali, perché se a seguito del comportamento fanno accadere un incidente, investono qualcuno. Diciamo che comunque questi comportamenti vengono memorizzati nel caso in cui ci sia già un'infrazione del limite di velocità. Perché chiaramente... Quindi no, mi scusi, la domanda finale però, se uno va alla velocità giusta e però telefona, la Trucam in quel caso non lo rileva? Beh, c'è la possibilità di utilizzare la Trucam come telecamera documentale, nel senso che può funzionare senza rilevare la velocità. A quel punto memorizzerebbe qualsiasi cosa che l'operatore decide di filmare. Però quindi potrebbero fare dei controlli, diciamo, a sorpresa in alcune strade per vedere statisticamente quanta gente usa il telefono e avrebbero un dato. Volendo, tecnicamente lo possono fare, sì. No, questo grazie, la ringrazio, perché così almeno abbiamo un'idea completa. Una cosa ultima, il privato può comperarsela una Trucam? No, noi non vendiamo a privati, vendiamo ad aziende che lavorano per polizie municipali o comunque a polizie municipali, a enti pubblici. La ringrazio, intanto ringraziamo Giovanni Viganò che ci ha spiegato esattamente come funziona Trucam. Sentiamo Davide, ascoltatore Davide. Buongiorno a tutti. L'ascolto. Gli spettatori, buongiorno a voi. Senta, niente, io volevo sottolineare un paio di aspetti di queste macchine che determinano la velocità, no? A parte che, vabbè, io come professione sono un chimico nucleare, quindi come fisica del movimento, delle azioni, così ne capisco un po' pochino. Quindi già sta inventando un marchingegno che annulli l'effetto della Trucam? No, se no che fa fare il fisico nucleare? Deve inventare un antidoto la Trucam, non lo so, rallentatore di velocità virtuale, non lo so adesso cosa sia. Molte volte arrivano delle multe proprio al limite, no? Un chilometro orario in più, un chilometro e mezzo orario in meno, e tutte queste cose qua. No? Io faccio 40-50 mila chilometri sulla Milano-Venezia tutto l'anno, per cui di camionisti che leggono il giornale, che parlano col CB, eccetera, ne ho viste una marea. Però ci staranno un po' più attenti adesso, deve avere anche un effetto deterrente questo attrezzo. Allora, in 40 anni di percorrenza non ho mai avuto il piacere di vedere una pattuglia della polizia che fermasse una di queste persone qua, però ho avuto questa sorpresa. Io ho ancora 32 punti classici sulla patente, quindi sono una persona che rispetta le regole. Una volta mi è successo, per dire, di andare a 10 km in più per superare dei camion che erano in fila, che stavano facendo, e il giudice praticamente mi ha chiamato perché io dovevo spiegare perché andavo 10 km in più, no? Quindi? Il problema è che sono stato trattato come un delinquente, nel senso, 400 euro di multa in questa autostrada dove io normalmente per 50 km di percorrenza impiego dalle 2 alle 3 ore. Allora io ho detto, va bene, io vi pago i 400 euro di multa, però voi tutte le volte che io ci impiego 3 ore per fare 50 km mi restituite la stessa cifra, non i 3 euro del pedaggio. Quindi queste macchinette, anche nelle statali, diciamo, dove magari ci sono dei traffici, degli incidenti, eccetera, se vai a 3 km all'ora in più ti fanno la multa. Se perdi 4 ore perché l'autostrada non funziona, per queste cose qui, nessuno ti restituisce. La butta sulla protesta il cittadino, è giusto, quello che dice lei ha una sua consistenza dal punto di vista emotivo, però diciamo che la Trucam dovrebbe anche essere uno strumento che dà una maggiore esattezza anche nel rilevamento dell'infrazione. E poi sono mondi che non dovrebbero in qualche maniera essere tra di loro in relazione, perché la polizia stradale rileva le infrazioni e regola il traffico, la società autostrade dai pedaggi, e quindi se le strade sono particolarmente congestionate, se è colpa per i lavori, già è colpa di qualcun altro che fa i lavori pubblici sulle autostrade nella maniera sbagliata, nei tempi sbagliati, con la maniera sbagliata. È un po' difficile fare una causa effetto e dire, se vado troppo forte mi fate la multa, ma se io ho rallentamento nessuno mi ridà i soldi. Emotivamente può averci una sua ragionevolezza, ma in realtà c'entra poco con la Trucam, di cui parliamo tra un istante dopo la pausa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi sono intrippato di comprarmi una Trucam, però non è possibile. Non so perché mi sembra meravigliosa. La sto guardando, sono un fissato con la tecnologia, anche il professor Chiappini che mi assiste in questo momento sta cercando su Amazon se vendono delle Trucam. È un attrezzo con tre obiettivi. Io immagino che sia uno un raggio laser che prende la velocità e segna la velocità, l'altro fa il filmato e l'altro fa la foto in HD. Bellissimo. A che serve? Non lo so. Mi viene a pensare che sia di origine militare questo strumento, che è uno strumento che ha una sua applicazione comunque come strumento, diciamo un puntatore, non lo so, però questo rende ancora più affascinante e ancora più temibile la Trucam, che avrà la polizia stradale in dotazione. Vedete, sentito, a oltre un chilometro di distanza vi prende, vi becca, vi segnala la vostra velocità, vi riprende in un filmato finché non vi avvicinate, vi fa una bella foto in HD, quindi in alta definizione, e vede tutto quello che state facendo, di lecito ed illecito. Non vi basta? Pietro Moretti, buongiorno. Buongiorno a voi. Vicepresidente ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Allora, il consumatore si pone anche il problema fino a che punto è possibile, non so se ve lo siete posti voi in quanto ci tutelate, entrare in maniera così invasiva nella privacy dell'abitacolo della nostra automobile, ammesso che è giusto identificare e reprimere comportamenti criminosi, però un pochino ci preoccupa. Vi siete posti qualche domanda sui limiti di questa Trucam? Beh, certo, dal punto di vista vista della privacy si pongono alcuni problemi, man mano che vengono ovviamente resi disponibili degli strumenti sempre più affidabili ed efficaci per entrare nella zona privata, chiaramente il problema si pone. Attenzione però, la normativa attuale, che in parte è disciplinata da provvedimenti del garante sulla privacy, prevede che la registrazione avvenga esclusivamente se c'è una violazione, ovvero non può la gente mettersi a registrare su una strada, tutto il traffico che passa, poi tornarsene in ufficio e guardarsi filmati con calma e fare sanzioni. Anche perché, non so, se non sbaglio, l'infrazione della cintura è sanzionabile se ti fermano e te la contestano. Esattamente, in generale ci sono due problemi, a un utilizzo indiscriminato, a strascico, chiamiamolo, di questo strumento. Uno è la questione della privacy, quindi la privacy prevale in generale. Quando è che viene meno il diritto alla privacy? Quando c'è un'infrazione al codice della strada. Solo in quel momento allora si può attivare la registrazione, altrimenti la registrazione dovrebbe oscurare sia target che volti se utilizzata in maniera continua e senza che vi sia un'infrazione. Perché sarebbe come la telecamera di sorveglianza di una banca, che però non è la puoi usare, a meno che non ti chieda un magistrato di visionare, nel caso ci fosse stata una rapina o un qualsiasi crimine di fronte alla telecamera, non può essere usata per essere visionata e vedere cosa facevano le persone. E quindi in questo caso qual è il limite che si pone? Se tu andavi automobilista oltre la velocità consentita, parte il filmato, come ci ha detto appunto il distributore della Trucam. Ma al di là di quello, anche se c'è la funzione, perché ha detto la funzione, cioè volendo l'agente di polizia stradale potrebbe comunque filmare soltanto, anche se non c'è l'eccesso di velocità. No, allora, se non c'è un eccesso di velocità o comunque se non c'è un'infrazione rilevabile, anche i tuoi oculi, ad occhio, e la telecamera non può iniziare a registrare. Però ci ha detto il signore che le importa che c'è questa funzione volendo. No, ma la funzione c'è, io sto parlando dal punto di vista della legge, non si può, ovvero chiaramente anche la telecamera può registrare qualunque cosa, poi la legge ti dice cosa puoi registrare, cosa non puoi registrare, cosa puoi pubblicare, cosa non puoi pubblicare. In questo caso la registrazione si attiva solo nel momento in cui c'è un'infrazione, così come un autovelox fisso automatico si attiva e registra esclusivamente quando rileva il passaggio di un'automobile che va oltre il limite di velocità, altrimenti quell'autovelox non registra. Nel momento in cui invece fosse messa una telecamera fissa, come accade sulle autostrade per controllare il traffico, eventuali incidenti, ingorghi eccetera, quella telecamera deve essere distante ovviamente e sufficientemente, o meglio non sufficientemente ad alta definizione per poter individuare targhe e chi è dentro, ma nel momento in cui io registro perché vedo che c'è un eccesso di velocità, o meglio lo strumento percepisce l'eccesso di velocità, a quel punto la registrazione può chiaramente vedere all'interno dell'abitacolo se ci sono se i dispositivi di sicurezza come le cinture vengono utilizzate, se ci sono comportamenti pericolosi per la guida. Ovviamente nel momento in cui c'è un'infrazione anche da parte del conducente è legittimo registrare all'interno delle abitazioni. Guardi, io non vorrei sembrarle eccessivamente malizioso, ma io le faccio degli esempi. Delle strade ad alta frequentazione di prostituzione, l'Italia è piena, ci sono i puttanieri e la sera vanno in giro. In teoria sarebbero immortalati con la loro compagnia al fianco e rimarrebbe immortalata nella foto. Lo dico come caso estremo, che però ciò accade di giorno o di sera. Non voglio entrare in merito al significato etico, morale. La prostituzione non è chiaramente una violazione del codice della strada, quindi rimane nella foto. Prostituzione o compagnia, magari in quel momento a uno. No, la foto deve essere oscurata, le persone estranee all'infrazione non possono trasparire neanche quando la persona stessa, autore della violazione, va a chiedere copia di quel filmato, di quella foto. Le faccio un esempio in più: arriva a casa una foto che comunque c'è una persona vicino, anche se oscurata, comunque una persona. Non è sempre detto che uno abbia diritto, voglia o desiderio di spiegare al mondo se c'è una persona in macchina. Le faccio un esempio estremo, però fa sempre parte della sfera privata di una persona. Io sto in macchina con una persona e non voglio dire al mondo, alla famiglia, che sto con una persona in macchina. Arriverà a casa comunque la foto con una persona in macchina oscurata vicino. No, allora a casa la foto non può arrivare, deve essere la persona che va a chiederla la foto, prima cosa. Infatti. Il problema si pone se la macchina è intestata alla moglie, se la macchina è intestata alla moglie, la moglie riceverà il verbale e potrà chiedere copia delle fotografie e magari becca il marito, tanto per rimanere in tema. Però detto questo, se vai a prostitute, magari fallo con la tua auto. Che certo. No, no, ma non è che voglio dire questo, non legale, ma della nonna. Faccio un ventaglio di situazioni in cui le persone, perché mi arrivano gli SMS, e registro le preoccupazioni di molti ascoltatori, quindi di questo. Quindi mi sembra chiaro intanto. Sentiamo qualche ascoltatore assieme. Livio, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Allora, io sono un medico, viaggio perché ho l'ospedale dove lavoro, lontano dalla mia residenza, però è una questione di scelta, ho trovato posto là e quindi ho preso. E faccio molta strada, circa 50 km per andare, 50 km per tornare, prima e dopo la guardia o prima e dopo il turno di ambulatorio. Ecco, la cosa che mi chiedevo, vedo tanti autovelox, non capisco, come sono disposti? Cioè, io non vedo una caratterizzazione scientifica di questo discorso, nel senso che di tutte le cose nella vita bisogna vedere cosa fai e il risultato di quelle cose. Invece vedo che gli autovelox vengono posti in punti di grande scorrimento dove la probabilità di incidente mi sembra molto limitata, dove è molto invece probabile che la macchina sfori dei famosi 5-10 km orari. Lei dice vengono messi per fare fatturato, non tanto per regolare il traffico. No, e la velocità. Io è solo un'impressione questa, quindi non ho una determinazione scientifica. Beh, sentiamo, abbiamo Pietro Moretti, vicepresidente Laduc, che forse può dirci qualcosa di più preciso rispetto a quello che posso dire io. Si pone questa domanda l'ascoltatore Moretti, lei cosa ha da rispondere? Sì, no, ha perfettamente ragione, questo credo sia anche empiricamente rilevabile ogni volta che si va in autostrada, spesso ci sono autovelox in autostrada, in superstrada, chiaramente appena si cambia comune, ad esempio su una strada, non su un'autostrada, ovviamente lì è la polizia stradale che ha la competenza, ma se si parla di una strada che passa da più comuni, appena si passa il confine si trova un autovelox perché a incassare è il comune successivo, poco importa se quell'autovelox è a 500 metri dall'autovelox precedente del comune limitrofo, quindi il problema esiste come? Ma Di fatturato delle amministrazioni comunali. Assolutamente, ci fanno i bilanci, certo. Mettono in preventivo di bilancio già le multe che riusciranno a incassare. Quindi, ma il problema dell'autovelox fisso, ed è per questo che questo strumento della Trucam in un certo senso è benvenuto, è che l'autovelox fisso non solo è fisso e quindi la maggior parte degli automobilisti dopo qualche mese sa esattamente. Beh, te lo dice anche il TomTom dove sono gli autovelox ormai, quindi esattamente, lo sappiamo benissimo. Dall'altro l'autovelox rileva solo la velocità, quando la velocità non è necessariamente l'unica o l'atteggiamento più pericoloso, perché nel momento in cui io sto per dormire o ho bevuto eccetera, queste cose le può rilevare solamente una pattuglia dotata ovviamente di strumenti che permettano di anticiparli queste, quindi è benvenuto il fatto che si vada più su strumenti utilizzati direttamente dagli agenti che sono sulla strada a percepire comportamenti che non sono solo quello della velocità e quindi con strumenti automatici che non rilevano i comportamenti, tutti i comportamenti pericolosi che poi creano incidenti, ecco, quindi assolutamente ha ragione l'ascoltatore, c'è più bisogno di pattuglie a giro per la strada che rilevino la vasta gamma. Ma io sto davanti a alcuni dati sugli incidenti automobilistici in Italia, io vedo che il telefono è il 76% degli incidenti del 2015 è stato dato da persone che avevano il telefono, perché telefonavano, e poi scendono il 18% per mangiare, per bere il 31%, comunque chi usa la macchina come se fosse un salottino, in realtà provoca degli incidenti, è pericolosissimo, quindi questi sono comportamenti comunque da sanzionare e sono altrettanto gravi, se non più gravi in certi casi, di una velocità che cede di qualche chilometro rispetto al limite. Ci fermiamo un istante, tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando del terrore della Trucam, il nuovo sistema di rilevazione che ha la polizia stradale in uso da poco tempo, anche se esisteva in Italia da vari anni, ma l'avevano soltanto le amministrazioni comunali, che permette, oltre di rilevare la velocità, anche di fare un filmato e scattare una foto ad alta definizione, quindi rilevare anche altri comportamenti scorretti, come l'uso del telefonino, l'omissione di allacciare le cinture di sicurezza, fumare, mangiare panini, truccarsi, farsi belli, depilarsi, tutte le cose che stiamo elencando. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io sono un trasportatore e sono a favore della tecnologia. Ben venga quella telecamera. Però sono sicuro, come ha detto lei prima, che troveranno il modo di contestarla quella macchina. Multe, qualcuno la contesterà per la privacy. Io penso che sia più per i controlli della velocità. Delle pattuglie. E vi spiego perché. Io ero a Roma, ero sul raccordo anulare alle 6 di mattina. No, 6 e mezza di mattina. Col camion andavo sui 70 all'ora. Praticamente mi passa un SUV. Una signora allattava la figlia mentre portava la mano. Cioè col biberon o con la tetta? No, attaccata a seno. A seno, così. Guidava questa bambina attaccata lì. Guarda, io in quel momento non ho avuto la possibilità, perché lei andava forse 80, 85, 90, di filmato. Ma non per, cioè, perché uno poi non crede a quello che vede sulla strada. Altri che usano il tablet. Cioè, se deve fare una frenata e c'è un impatto, ci fa lo stracchino con la figlia. No, guardi, cioè, lei può capire che gravità allattare un bambino non stando seduto sul seggiolino. Io posso capire. Mentre guida. Sì, mentre guidava, aveva con la mano destra la bimba, penso che era, non lo so, attaccata al sino, e lei che guidava la macchina tranquillamente. Oppure vedere quei bambini che giocano in auto. Beh, è una cosa da fanatiche, perché uno si può fermare un attimo, se le dà la poppata alla bambina, gli dà la poppata e riparte. Cioè rischia la vita sua, della figlia. Vorrebbero più controlli della polizia stradale. E quando si becca quelle persone, non perché scendono, è una bella donna, si passa sopra. No, là bisogna fargli la multa a lei, perché ha creato... Cioè, se succede qualcosa ci va di mezzo quella bimba. È una roba da assistenti sociali, perché è veramente un comportamento pericolosissimo. Come no, io lo volevo firmare apposta e poi dire: ma c'è qualcuno che potrebbe fare qualcosa? Ecco perché ben venga quella macchinetta, sempre con un uso noto una cosa, che le grandi accusate sono le donne che guidano, perché finora tutte le telefonate che arrivano sembra che i comportamenti femminili sono quelli, addirittura siamo arrivati al paradosso, la donna che allatta la tetta alla figlia mentre guida, mi sembra una cosa veramente da film. Però ne prendo atto, noi registriamo quella che è l'opinione generale, statisticamente rilevata da un campione dell'Italia, che è il pubblico che ascolta Radio 24 all'ora del soffritto, quindi ha una sua rilevanza. Fabrizio, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Sì, buondì. Sì, il fatto che una mamma allatti la bimba è un caso, penso, eccezionale, raro. Può essere eccezionale, tutto raro. Tutto può essere, non mi meraviglia di nulla. Che anche una donna in parte, un uomo che fa altre cose. Sì, lei parla della pompa stradale, ma succede, capita, sì. Perfetto, però io credo che poi quest'arma qui diventi pericolosa, perché lei sa benissimo che quando guida deve tenere due mani sul volante, pochi le tengono. Ma in caso di incidente lì uno muore dissanguato e l'altro strangolato, si sa come funziona. Sì, è vero. Sì, però mentre guido e io posso tenere la mano appoggiata in parte a finestrino, sono in infrazione perché non ho le mani sul volante. Cioè, sono mille le cose a questo punto che possono contestarti, e io credo che si vada a finire lì. Cioè, il filmato porterà comunque sempre soldi nelle casse per qualsiasi motivo, perché loro avranno sempre un motivo. Sì, però non bisogna anche esagerare. Onestamente, guidare con un telefono mentre si guida è pericoloso. Guidare senza cintura è pericoloso. È una cosa che sicuramente va sanzionata e va repressa. Guidare mentre si fanno altre operazioni, come truccarsi o come appunto mangiare un panino in mano, è pericoloso. Poi capita a tutti il momento in cui uno c'ha la pizzetta in mano, sale in macchina e parte. Però è giusto sapere che adesso, se ti beccano a farlo, paghi l'infrazione che fai, perché sei un pericolo anche per gli altri. Sentiamo Alessandro. Alessandro. Sì, buongiorno. Poi lascio a Moretti la conclusione, così mi commenta tutto. Ma Alessandro. Sì, buongiorno. buongiorno. La mia esperienza è questa: io faccio tantissimi chilometri in macchina. Ora ben venga questa macchinetta, però io ho notato e ho fatto anche una statistica che sarebbe sufficiente per fare delle multe giuste che una pattuglia con due persone su una moto passasse accanto alle macchine. Il 90% manda i messaggi con il telefonino, e con questo apparecchio non ma si questo può è vero, perché, questo è vero, questo perché è vero. Il telefonino è sotto il volante, quindi cioè, ma io ci ho fatto caso proprio, il 90% delle persone, uomini e donne uguali, rispondono ai social, rispondono al telefono, guardano, non so cosa guardano, ma sicuramente hanno il telefono in macchina e rispondono a messaggi. Cosa ci vorrebbe una pattuglia con la telecamera, una foto, ci passa accanto, gli fa la foto e poi la ferma? Farebbero cassa i comuni, una cosa incredibile. Beh, diciamo che a Roma qualche anno fa, quando venne a noi il comandante dei vigili a Roma, era la precedente amministrazione, ci raccontò, si era messo lui una volta proprio in una strada e fermava tutti quelli che telefonavano. La sera aveva finito non so quanti blocchetti di multe. Io non so nelle altre città, Roma, la città in cui vivo, è frequentissimo, ma ogni tre macchine due hanno il telefono in mano, mi sembra logico. Sentiamo allora, chiudiamo come ho detto, una battuta di conclusione a Pietro Moretti, vicepresidente ADUC. Mi sembra che ci sia un equilibrio giusto fra quello che è il terrore degli automobilisti e la giusta accettazione di un sistema comunque che reprime alcuni comportamenti regolari. Sì, certamente, e la direzione dove andare è la direzione che questo strumento, diciamo, in un certo senso cerca di percorrere, o meglio l'adozione di questo strumento, cioè la presenza di agenti accertatori sulle strade. Come avete ben detto e come hanno detto gli ascoltatori che hanno chiamato, il problema è che le macchinette utilizzate ad oggi, quelle fisse e in automatico, sono troppo selettive e servono esclusivamente a far cassa. A far cassa ai comuni. Invece la Trucam ci vuole un essere umano la tenga in mano, e questo ci conforta. Grazie Moretti, grazie a tutti, alla prossima.